voix così lontana. Si chiama, e se ci fosse al mondo un'altra luce, tu te ne andresti allora. Un altro bacio, un letto, un'altra voce, non dire mai il suo nome. Le nostre tracce fresche sulla neve, forse è servita a qualche cosa. Forse è servita a qualche cosa. Era ora, oramai, non mi ha concesso di essere stanco, nonostante la fatica.